A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Filippo Aureggi in regia. È un'Italia che non spreme gol dall'amichevole con la Svizzera, ma non ne becca di gol. Forse nella notte che è stata quella della festa del nostro principe difensore Fabio Cannavaro, era anche giusto così. Comunque un trend invertito rispetto alle ultime tre partite. La gara offensiva degli azzurri invece sembra fatta apposta per ridare fiato alle trombe nazionali popolari che chiedono a gran voce Antonio Cassano. Chiaramente mancava l'uomo, che il giocatore salta l'uomo, il giocatore da ultimo passaggio, eccetera. Ne parleremo all'impressione anche con i nostri ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. È un piacere per me salutare il bravissimo Alessandro Alciato, inviato di Sky. Ciao Alessandro. Ciao a te, buongiorno a tutti. Senti, Lippi chiedeva niente meno del massimo nelle dichiarazioni della vigilia. Se il massimo è questo, non c'è da fare i salti di gioia, ma magari è il massimo momentaneo, è il massimo di questo periodo, tenendo anche conto del fatto che Alessandro tra poco si fa sul serio con la qualificazione mondiale che non è ancora in banca. Cosa dici? Sì, diciamo che il massimo che questa nazionale può fare, ma che la nazionale italiana ha sempre fatto negli ultimi anni ad agosto, perché negli ultimi anni sono state veramente delle amichevoli da sonno per quanto riguarda la nazionale. Mi ricordo a Nizza contro l'Austria, piuttosto che in Ungheria contro l'Ungheria, appunto. Non può essere questa la vera nazionale. Certo è che ieri molti giocatori non hanno giocato da campioni del mondo, e non solo quelli che non c'erano a Berlino, ma anche quelli che a Berlino c'erano. Ci sono stati due giocatori che hanno fatto meglio degli altri e che sono piaciuti a tutti, cioè Buffon, ma questa non è una novità, e Giuseppe Rossi. Per quanto riguarda il resto, abbastanza bene Marchisio, ma poi non è stata una nazionale entusiasmante. No, non lo è stata. Giuseppe Rossi ha giocato molto bene, è vero, ha tentato di fare un po' il Cassano, no? Però non è proprio il suo mestiere quello dell'ultimo passaggio. Anche perché Cassano in questa nazionale non ci arriverà mai, almeno fino a quando c'è Marcello Lippi, e quindi insomma qualcuno lo deve fare quel ruolo, e insomma ci ha provato ieri Giuseppe Rossi. Io mi stupisco spesso, no, quando anche noi giornalisti, magari a Coverciano, nelle interviste a Lippi, continuiamo a chiedere di Cassano, perché è un po' la storia che c'era con Panucci, e si ripete: Panucci non l'avrebbe mai convocato e si sapeva, e Cassano adesso non lo convocherà mai e si sapeva. Ma è un corso diverso per Balotelli, ma è ancora presto. Ma certo, io sostengo che abbia il pieno diritto di fare questo tipo di scelta, anche perché insomma Cassano è giocatore che ha una storia molto tormentata con la nazionale. Poi negli ultimi giorni, insomma, tantissimi ascoltatori che chiamano, tutti domando: ma alla fine sul fronte internazionale cosa ha fatto Cassano? E poi sta per iniziare la sua terza stagione con la maglia della Sampdoria, con tutto rispetto per la Sampdoria, quando grosso modo sul mercato costa quanto Aquilani. Quindi ci sarà una ragione, non è solo Marcello Lippi a pensarlo in questa maniera. Detto questo, io guardando soltanto il campo e non a tutto il resto lo porterei, però Marcello Lippi ha pieno diritto di fare questo tipo di scelta. Senti Alessandro, cosa si diceva invece nei corridoi del dopopartita, soprattutto qual era l'umore e qual era l'umore sulla via del ritorno? Beh, l'umore c'era quello altissimo ovviamente di Marchisio e Criscito. Criscito ha detto: ho giocato bene, anche io non sono particolarmente d'accordo, però insomma si sentiva di aver fatto una buonissima partita. Discorso diverso per Marchisio, anche lui contento, secondo me lui una buona partita, come dicevamo prima, l'ha fatta. Era nelle dichiarazioni, ovviamente non è che possono dire esattamente quello che pensano, come sai non succede mai. Era la classica amichevole d'agosto anche nel post partita, insomma nei commenti Lippi che difende la squadra, i giocatori che dicono: abbiamo giocato bene, ci è mancato solo il gol. Diciamo che fra qualche giorno, fra poco, inizio settembre, si capirà veramente quanto vale questa nazionale. Per il discorso facevi prima di Lippi, ma diamogli un po' di credito, insomma, ci ha portato alla Coppa del Mondo il 9 luglio 2006, insomma, qualcosa ha vinto. Qualche titolo ce l'ha per poter anche scegliere di non convocare Cassano, qualche titolo ce l'ha, hai ragione. Senti, invece, l'altro giorno ho fatto outing, no? Contrariamente alle mie abitudini, lunedì ho fatto outing e ho confessato il mio tifo per la prossima stagione calcistica, che andrà a un signore che conosce abbastanza bene, che allena al Chelsea. Va bene che preferisce la Coppa da titolo del vostro libro, però tanto per cominciare anche un piatto o uno scudo, se preferisci, non è male. No, ma infatti, sai cos'è la cosa che mi ha colpito alla fine? Drogba, che alla fine della partita, insomma, dopo il rigore, a vittoria appena conquistata, va ad Ancelotti, gli tira un buffetto e si mette a ridere. Io ho capito, insomma, che in pochi giorni ha fatto quello che ha fatto in tanti anni al Milan, cioè è riuscito a conquistare sicuramente lo spogliatoio, cioè, perché con Ancelotti è fondamentale quello. Cioè, se i giocatori sono della sua parte, fra l'altro riesce anche a fare delle battute in inglese, mi ha detto l'altro giorno, quindi insomma siamo abbastanza avanti con il lavoro. Dico, se in pochi giorni Ancelotti riesce a fare questo nello spogliatoio del Chelsea, che come sai non è uno spogliatoio facile, anzi tutt'altro, sì, sono dei caratteri forti, beh, mi sembra sia già abbastanza avanti con il lavoro. Poi il suo sogno è la Champions, però insomma è ancora presto per parlarne. Sì, in questo momento è un po' il sogno di tutti, anche del suo amico Mourinho, però appunto il mio tifo è orientato verso quella direzione e tra poco ci siamo, perché sabato 12:45 c'è il debutto nella Premier League contro l'Al City. Quest'estate mi veniva un po' da ridere quando sembrava volesse una punta centrale anche al Chelsea. Ho detto, ma porca miseria, sono anni che la chiede al Milan, non gliela prendono, adesso va al Chelsea, vuole sta benedetta punta centrale, non gliela prendono anche lì, quasi mi voglio di mettere dei soldi. Sì, in effetti è stato un mercato un po' tormentato, insomma, uno da fuori può pensare a Abramovic, quello che l'allenatore chiede, lui lo compra, non è esattamente così, eh. Ad esempio la vicenda Pirlo, è nata, noi l'abbiamo scoperta ultimamente, no? Ma cioè, è nata tanto tempo fa, appena Carlo Ancelotti è diventato allenatore del Chelsea, c'è stato un lavoro pazzesco su Abramovic, perché Abramovic dice, va bene, io compro i giocatori che servono, però non voglio gente che guadagni tanto o troppo, sì, oppure che abbia uno stipendio vicino al capitano Terry, e poi non voglio gente che abbia già compiuto 30 anni. Allora a Carletto sono venuti i capelli bianchi, no? Perché Pirlo 30 anni li ha, non è che guadagni pochissimo, ci ho messo un mese e mezzo per convincerlo, quando ha convinto Abramovic il Milan ha cambiato idea, quindi non è che il mercato gli sia partito proprio nel migliore dei modi. Poi vi racconto anche un retroscena, no? In questi giorni si sente, si legge che il Chelsea sarebbe pronto a sborsare 45 milioni di euro per Ribéry. In realtà c'è stata un'offerta di 60 milioni fatta direttamente al telefono da Abramovic a Uli Hoeneß, che è il direttore generale, colui che si occupa del mercato del Bayern Monaco. Sapete qual è stata la risposta di Uli Hoeneß? Questa, cioè gli ha riso al telefono, perché ha detto che per meno di 80 milioni di euro lui Ribéry non lo vende. Si vede che non ne hanno bisogno. Cosa dici? 80 milioni mi sembrano tantini per un giocatore, pure una superstar come Ribéry. Però insomma, se caccava le 67, 80 mi sembrano tanti. No, ma sembrano tanti a me sembrano tanti, cioè tutti quelli che sono stati spesi non in questo momento, anche 67 per Kakà, che è fortissimo, ma sono 67 milioni di euro. Forse si sta esagerando, cioè almeno io credo questo. Non ci si può basare sulle cifre del Real Madrid, perché sennò allora nessuno compra più nessuno. Senti, hai passato gran parte dell'inverno, no? con Carlo Ancelotti, al di là del libro, nei dopo partita, ogni volta ti toccava la stessa domanda: cosa fai l'anno prossimo? Resto qui. Cosa fai l'anno prossimo? Resto qui. Onestamente, dal punto di vista personale, ti mancherà Carletto. Io l'altro giorno, ma anche questo ti dico, mi sono reso conto, per la prima volta ho realizzato che era davvero andato al Chelsea, quando l'ho visto con quella divisa diversa su una panchina così lontana, ho detto porca miseria, è andato davvero. Eh sì, ma mancherà, perché poi alla fine dai, cioè, si era instaurato un rapporto di amicizia, no? Quindi mi mancherà quello che è Carlo sul campo, e mi mancherà anche fuori, cioè ci sono delle cene, tu non hai idea insomma cosa fa Carlo, cioè, a parte mangiare, come ha scritto lui nel libro, l'impossibile, cioè tutto quello che gli viene portato, ma escono delle barzellette, delle cose, dei racconti, sono assolutamente assolutamente incredibili. Un po' li ha raccontati nel libro, poi ce ne sarebbero altri, perché ogni giorno ne inventa e ne racconta una. Ad esempio nello spogliatoio, anche questa è uscita, no? Nello spogliatoio del Chelsea, come in tutti gli spogliatoi, quando uno nuovo arriva deve fare qualcosa davanti al gruppo. Un allenatore nuovo che arriva al Chelsea cosa fa? Deve cantare e deve scegliere la canzone. Lui ha scelto La società dei magnaccioni, quindi immaginatevi la scena: Terry, capitano, Lampard, sembra un lord inglese, c'è col suo caschetto, Drogba, tutti in prima fila a sentire Carlo che cantava Fatece largo che passiamo noi, siamo lì giovanotti di sta Roma bella, cioè è stato un peccato non esserci, insomma, però ha raccontato che hanno apprezzato, non avevo dubbi. Ti toccherà Leonardo, che comunque è un tipo furbo, non è facile far parlare Carlo Ancelotti, forse un po' più semplice dialogare con Leonardo, però attento. Sì, è più Leonardo, secondo me, ha una pressione pazzesca addosso, perché cioè tutti parlano di lui, gliel'hanno messo questa pressione. Insomma, Berlusconi l'ha scelto. Lui all'inizio Leonardo non voleva fare l'allenatore, e all'inizio, anche qualche mese fa, era ancora convinto di non fare l'allenatore. Di fatto è stato obbligato, un termine brutto perché nessuno può obbligare Leonardo ad andare in Milan, ma è stata una cosa del genere. Tutti lo aspettano al varco, tutti, anche i suoi ex compagni di squadra, dicono ma non ha mai allenato, non è come Capello. Diciamo che secondo me Leonardo farà bene, perché come dicevi tu è una persona intelligentissima, però insomma anche lì spero che lo lascino lavorare, nel senso che già pressione ne ha di suo addosso tantissima. I giocatori stanno facendo di tutto per metterlo a suo agio, vedremo anche lì fra pochi giorni cosa succederà, se ce l'hanno fatta. Intanto il Milan ha proseguito nel corso del rinnovamento, ha preso Roma. Sì, 35. Sì, a livello di portieri sì, non è messo benissimo, insomma c'è sempre quella storia, che non è una storia, che è la verità, che il Milan un anno e mezzo fa, due anni fa, adesso non mi ricordo esattamente la data, aveva preso Buffon, sì. Buffon aveva già firmato il contratto, Berlusconi aveva detto no, Dida è una mia scommessa, resta Dida, insomma poteva esserci Buffon adesso in porta al Milan. A livello di portiere non è messo bene, a tutti Berlusconi ha detto che voleva gli under 23, gli under 23 in giro non ce ne sono, quelli che ci sono costano. Insomma, il rinnovamento c'è, ma è un rinnovamento che parte dal bilancio, non è un rinnovamento pensato negli anni, no, cioè il primo anno del rinnovamento, bisogna vedere nel giro di qualche anno cosa succede, se può tornare, se il Milan può tornare a vincere tutto quello che ha vinto negli anni. Senti Alessandro, ti chiedo ancora questo, perché mi interessa il tuo parere professionale. Tutte le volte che vedo alla fine della partita della Nazionale partire Variale col microfono, mi interrogo, oltre a temere un pochino per lui, soprattutto nelle serate non brillantissime come poteva essere quella di ieri. Ieri eravamo tutti lì ad aspettare la domanda su Cassano, non ha avuto il cuore di farla. Comunque mi interrogo sull'opportunità e sul reale vantaggio apportato dalle interviste nell'immediato dopo partita a bordo campo con fiumi di adrenalina ancora in circolo. Io dico la mia, cioè ti dico proprio la verità, è l'unico momento forse in cui hai la possibilità di sentire delle frasi vere, di sentire quello che i protagonisti pensano per davvero, perché se lasci passare anche solo 10-20 minuti poi ti trovi in un 100% di frasi, il 70%, l'80% e la palla è rotonda. Sì, ciclostile. Sì. Quindi cioè, se, a me personalmente piacciono tantissimo quelle interviste lì, perché veramente cioè, hai la possibilità di sapere quello che pensano. Per quanto riguarda Variale non si accettano più scommesse se Lippi lo manderà a quel paese oppure no, perché succede sempre, sì. Abbastanza matematico. No, ma io mi preoccupo per la sua integrità fisica, ti dico la verità, più che sulle parole. Alessandro, grazie, è stato davvero un piacere, a presto. Piacere mio, magari grazie la prossima volta convochiamo il nostro amico. Oggi era pronto a rispondere alla convocazione, ma si sta allenando al centro di Cobham e quindi con la squadra, e quindi non poteva rispondere. Vedrai che presto lo rintracciamo. Grazie Alessandro, grazie, davvero. Dunque, diversi ascoltatori via SMS provano a innescare un parallelo tra la storia di Cassano e quella di Roberto Baggio. Non mi sembra opportuno questo paragone, anche perché Baggio ha fatto la sua straordinaria carriera con la maglia azzurra. Cassano dubito che riuscirà mai a compierla questa carriera in maniera brillante. Saluto e ringrazio Roberto Beccantini. Ciao Roberto. Buon pomeriggio. Senti, se c'è stato qualcosa di buono nella notte svizzera è stato forse il debutto dei due ragazzini, Criscito ma soprattutto Marchisio. Sì, almeno visto in TV non ho riportato dei rilievi così entusiastici, però è chiaro che ce la sono cavata, nella prima mezz'ora hanno contribuito a far giocare bene la squadra. Mi spiace per Marchisio, che si è mangiato anche poi complice il portiere un gol che avrebbe potuto cambiare la piccola storia della partita e magari la sua grande storia in azzurro, però speriamo che ci siano altre occasioni. Ad ogni modo, insomma, una partita di ordinaria amministrazione, non poteva non essere meglio delle ultime della Confederation. Sì, non poteva certo essere meglio. Senti, ma mi domando e non trovo risposta. Criscito così frettolosamente allontanato dalla Juventus, così frettolosamente dimenticato dalla Juventus, perché secondo te è corretta questa valutazione? Ma guarda, no, assolutamente. Io avrei tenuto Criscito e non ripreso Cannavaro, perché la sua storia bellissima era finita, capito? Però era chiusa. Nulla contro Fabio, ci mancherebbe, però quando una storia si chiude, si chiude. Criscito, quei due gol che ha preso da Totti per la Juventus evidentemente hanno pesato molto. C'è da dire una cosa, che in Criscito e magari anche in Gilardino non vedo così da fuori un grandissimo carattere battagliero, hai capito? Cioè le difficoltà che ci sono, soprattutto quando tu fai il passaggio nella grande squadra e dovrebbero in un certo senso esaltarti, o comunque qualcuno esaltano, ecco, in loro mi è parso che non sia stato così, che abbiano subito gli eventi, capito? Tanto è vero che Gilardino a un certo punto è andato a Firenze e Criscito ha deciso di restare a Genova. Sì, le difficoltà un po' li ammosciano. Questa è l'impressione dall'esterno, fermo restando che Criscito non avrei mai dato via. Senti, comunque Criscito, Marchisio li abbiamo visti ieri sera. Giuseppe Rossi penso sia ormai titolare o quasi. Poi c'è Santon, poi c'è Motta che ieri sera mancava, sì. Balotelli può essere, magari lo vedremo. Lo zoccolo verde per il mondiale sarà questo, secondo te? Ma può darsi, adesso senza scapicolarsi può darsi. Tanto guarda, la realtà è che non si dovrebbe dire, ma la possiamo dire a quest'ora d'agosto, che è tutto, conta poco fino al mondiale, capito? Poi il mondiale è una cosa, certo, conta qualificarsi, che a volte noi dimentichiamo che non siamo ancora qualificati, ci siamo quasi ma non ancora qualificati. Ci vuole un po' più di qualità dalla cintola in su, ci vuole il ritorno di un numero 10 per quello stato, capito? Per quello che dovrebbe essere, cioè quello del passaggio, del dribbling. Dribbliamo poco, sì. Puntiamo poco gli uomini. Nell'ultimo passaggio siamo un po' carenti, anche perché Pirlo sta cercando di tornare il grande Pirlo, magari ci riuscirà, però non c'è ancora tornato, quindi si cade sempre lì su Cassano, su Totti, su Del Piero, nella speranza che salti fuori qualcun altro. Sì, tu scrivi infatti oggi manca agli azzurri, ma è un dato evidente, oggettivo, che saltava agli occhi subito, manca agli azzurri l'uomo del primo dribbling e dell'ultimo passaggio. Ci ha provato Giuseppe Rossi, ci sarebbe Cassano, ma è terreno minato. Si fa un gran parlare intorno a Cassano. Io credo che comunque Lippi, ripeto quello che ho detto prima, abbia tutti i diritti di compiere questa scelta su Cassano, perché non è soltanto un giocatore. Sì, devo dirti che di fronte a problemi psicologici sono rimasto un po' sorpreso anch'io. Immagino cosa volesse dire Marcello, che evidentemente Cassano ha più paura del Cassano fuori campo che in campo, è inutile che ce la meniamo, ecco. Donadoni riuscì a superare questa linea di confine, anche se poi paradossalmente in campo vedemmo il Cassano più disciplinato di tutta la sua storia. Essendo giornalisti ci arrabbiamo dopo aver preteso che fosse disciplinato fuori, perché siamo fatti così. È chiaro, non si può essere amici di nessuno, delle grandi esclusioni ci sono sempre state, da Berzotti in su e in giù, penso a Becalossi, certo. Qui niente da fare. A me spiace perché Cassano, almeno vedendolo solo nei 90 minuti domenicali, è una delizia, capito? Sì, però sì, evidentemente non lo so. La sua storia con la nazionale è comunque molto tormentata. Anche Donadoni prima l'ha chiamato per quelle due partite con Lituania e Francia, poi accantonato fino agli europei quando aveva tutti i fucili addosso, e anche lì non... probabilmente questo ha orientato anche le sue valutazioni su Cassano. Bisognerebbe mettere l'uno di fronte all'altro, all'americana, ma non siamo americani. Siamo americani per fortuna. Invece i tifosi della Juventus continuano, ma raccolgo proteste ogni giorno, a schiumare rabbia verso Fabio Cannavaro. La partita storta contro il Villarreal dell'altra sera ha alimentato ancora queste contestazioni, dando un pretesto tecnico in una serata storta per la Juventus tutta. Finirà questo tormentone? Io spero di sì, perché come ti ho detto prima, io Fabio non l'avrei ripreso per via della storia chiusa, ma una volta che la società, giustamente, senza tenere conto dei tifosi, ripeto, senza tenere conto, decide di riprenderlo, ci può essere una contestazione tutto sommato anche come quella di Salerno, faccio un po' loro, basta che sia civile, fatta di striscioni, di fischi, possibilmente non di insulti, ma tu mi chiedi se finirà, non lo so, ma deve restare in questo ambito, mai superare questi confini, perché la Juventus ha fatto una scelta, ricordiamo ai tifosi della Juventus che i tifosi impedirono alla Juventus di fare un'altra scelta la scorsa stagione a mercato caldo, quella di Dejan Stankovic, non so se sia stato un bene da parte dei tifosi. quindi il tifoso deve fare il tifoso. In Italia il tifoso ha preso troppo spazio, bravissimo, troppo peso. Bravissimo, vuole essere troppo protagonista di un gioco che non è il suo. Il tifoso deve fare il suo mestiere. Non gli piace una squadra, non rinnova l'abbonamento, paga, bravissimo, il biglietto della fischia. Non sono, gli insulti non dovrebbero essere tollerati, però siamo in Italia. Comunque metto uno striscione non offensivo, possibilmente ironico, e stop. Senti, invece, sembra a proposito di Juventus e di un popolo critico, molto critico verso la dirigenza, anche la partenza di Cristiano Zanetti è diventata motivo, sì, di proteste feroci. Sì. Devo dirti la verità, io non credo nel calcio d'agosto, quindi non credevo nella carrozza imperiale di cui si era vociferato dopo le vittorie su Siviglia e Real Madrid, non credo alla zucca che è diventata la Juventus dopo la lezione inflitta dal Villarreal a Salerno. Però di fronte alla cessione improvvisa di Cristiano Zanetti, una delle nostre poche lampadine di centrocampo, sono rimasto anch'io sorpreso, per tacere del fatto che improvvisamente si parla di un incedibile polse, che posso capire soltanto in funzione di un altro mistero bianconero, le condizioni di Sissoko. Però sul fatto di Zanetti, ripeto, una delle nostre poche lampadine di centrocampo, pur con tutti i guai fisici che Cristiano si trascinava, prova ne sia l'ultima stagione, la penultima è stata eccezionale, l'ultima no, sono rimasto di stucco. Sì, probabilmente Paulsen incedibile in senso letterale, nel senso che non si può cedere perché nessuno lo vuole. Nessuno lo stesso vuole, discorso per Thiago, insomma. E adesso nessuno vuole che sia ceduto, capito? Siamo passati usando le stesse parole, ma miscelandole in un certo modo, abbiamo due realtà opposte. Senti Roberto, ti chiedo ancora questo: sarà Mauri, come molti pensano, il centravanti titolare della nazionale italiana ai mondiali? Non lo so, però è chiaro che con l'eclisse di Toni, a Mauri, che personalmente piace molto come tipo di giocatore, anche se l'anno scorso veramente ha fatto un campionato, il classico campionato che spacca il tifoso, da 10 l'andata, da 4 il ritorno, ecco, con infortunio incorporato. Ecco, ma è chiaro che può fare molto, può essere utile, far comodo a Marcello, perché è un giocatore, secondo me, fatte le debite proporzioni, vicino a Ibra, il più vicino a Ibrahimovic come forza, come tecnica. È un brasiliano strano, perché non è un brasiliano di terra, di dribbling, è un brasiliano d'aria, cioè di testa, di stacchi, però insomma, se Toni non recupera il rendimento d'antan, lui è certo una possibilità da non trascurare, fermo restando che la qualità va perseguita anche alle spalle della Mauri o del centravanti di turno. Grazie Roberto, buon lavoro, grazie davvero. Grazie a voi, buon pomeriggio. A presto, Roberto Beccantini. Bruno dalla provincia di Pesaro, primo ascoltatore di oggi, ricordi i contatti 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Enrico da Ferrara, un po' estremista: ci vuole Giovinco, se fossi in Lippi pensionerei tutti e promuoverei in blocco l'under 21, ma mi sembra un po' estrema appunto come soluzione, magari dopo i mondiali. Adesso si tratta di costruire una squadra, non di fare una rivoluzione di questo tipo. Bruno, dunque, buongiorno. Buongiorno, io volevo sentire quali possibilità e che cosa può dire lei del Bologna, se può essere una squadra che si salva. Secondo, dicevo del Milan, che dice Leonardo di essere squadra da scudetto. Voi che siete competenti, cosa ne pensate? Penso di no, Bruno. Ma potrebbe essere un no ad entrambe le domande. Nel senso che il Milan in questo momento non è squadra da scudetto, non è attrezzata per lo scudetto, pur costando come una squadra da scudetto dal punto di vista degli ingaggi. Ed è questa la grossa distorsione, perché non c'è un Milan tutto da buttare, squadra da metà destra della classifica. È chiaro che il Milan è comunque nel nostro orticello, nel nostro campionato, una squadra competitiva, ma non competitiva per lo scudetto, quando invece dovrebbe esserlo, quando invece il monte ingaggi dovrebbe essere quello di una squadra che compete per i massimi traguardi. Continuo a pensare che a quelle parole scritte da Arrigo Sacchi, insomma, questo Milan ha il grosso problema del costo del lavoro, che è ancora troppo elevato. Quando il costo del lavoro sarà abbattuto, allora quello sarà il momento in cui il Milan potrà davvero pensare ad una rifondazione. Per ora sono grosso modo delle pezze messe anche un po' a caso, se vogliamo, su un vestito ormai vecchio. Quanto al Bologna, insomma, mi sembra una di quelle meno attrezzate, onestamente, in questo momento, e al netto di tutte le vicende societarie ancora molto difficili da capire, da leggere e da intuire per quanto riguarda gli sviluppi. Non mi sembra un Bologna attrezzatissimo, ecco, nella corsa a salvezza. Mi sembra una squadra piuttosto debole, quella che sta nascendo. Alfonso da Firenze, buongiorno. Ecco, dottor Cento, grazie. Io volevo dirle che il sergente maggiore Lippi ebbe anche grandi problemi con un grandissimo giocatore come Roberto Baggio. Lo ricorderà, dottor Genta. Anche Capello, però, mi pare. Scrisse un Gea Chius contro Lippi, un libro scrisse. Sì, scrisse certe cose in un libro, non scrisse un libro contro Marcello Lippi. Chiaro, anche Baggio ha avuto i suoi problemi con Lippi, così come li ha avuti con Capello una volta passato al Milan. Insomma, è un po' destino di questi grandi giocatori, di questi grandi fuoriclasse con personalità molto condizionanti dal punto di vista del gioco. Però, insomma, la differenza di Cassano, enorme differenza con Cassano, è che Baggio ha scritto gran parte della sua magnifica storia con la maglia azzurra, più che con la maglia dei tanti club in cui ha giocato. Ecco, torniamo, tra poco riprendiamo a parlare con gli ascoltatori. Ricordo 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Le notizie di giornata dicono che, insomma, riguardano grosso modo le trattative di mercato in corso tra Burdisso, che gradisce il trasferimento a Roma, lo dice il suo agente. Si parla a questo punto di prestito piuttosto che di cessione definitiva. Il giocatore preferirebbe questa seconda soluzione, comunque è un affare che grosso modo si farà. Mentre, sempre per quanto riguarda il fronte Inter, ci sono delle dichiarazioni dell'attuale oggetto del desiderio dell'Inter. Ha ragione, secondo me, perché è il giocatore che sarebbe ideale per i nerazzurri, cioè Wesley Sneijder, che raffredda però un po' le speranze nerazzurre, dicendo: io voglio lottare per il mio posto nel Real Madrid nonostante ci sia parecchia concorrenza. È un'intervista rilasciata all'emittente britannica Sky Sports. Non voglio lasciare il Real, so che il calciomercato resta aperto ancora un paio di settimane, ma la penso ancora così riguardo a questa situazione. Lo dice Sneijder, dunque, che vuole... insomma, testimonia una certa personalità da parte di questo giocatore, che però mi sembra assolutamente chiuso in maglia bianca. Penso che finirà per cambiare idea, o gliela faranno cambiare i suoi procuratori. Insomma, ripeto, il giocatore sarebbe perfetto, secondo me, più di ogni altro, per completare lo scacchiere nerazzurro. Abbiamo un altro ascoltatore che è Massimo da Arezzo. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo parlare del mercato del Milan. Mi sembra un po' che il Milan non è che abbia una direttiva su come impostare il mercato. Mi sembra una navica un po' vista. Anche le dichiarazioni di Berlusconi, voleva fare la squadra giovane, ha preso un portiere di 35 anni, Roma, che francamente... E voleva fare la squadra giovane quando era molto semplice, invece di vendere Cacà. Invece di vendere Kakà si poteva non vendere Kakà, immagino, tenere Kakà e vendere tutti gli altri. Sì, però vendere Kakà è semplice, vendere, faccio un nome, Ronaldinho, mi sembra abbastanza complicato oggi, soprattutto se l'obiettivo è quello di fare cassa, no? Quindi è chiaro che il gioiello della corona era Kakà, immediatamente monetizzabile, e così è stato fatto. È chiaro che poi tutto il resto viene di conseguenza. La mossa di Roma è un'esigenza contingente, io credo, perché il portiere titolare di questa squadra rimane comunque Abbiati, e non è una cattiva idea, però Abbiati ha problemi fisici gravi da risolvere, e dunque si tratta di temporeggiare con Dida, che pure non sta benissimo, con un Kalas onestamente improponibile, era molto rischioso, e dunque è stata fatta questa mossa su un portiere che comunque è affidabile, è sufficientemente esperto a livello internazionale, e dunque così è stata chiusa temporaneamente la falla da parte della dirigenza rossonera. Certo, non è un investimento sul futuro, dato che Roma ha 35 anni. Antonio da Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno Giorgenta. Ascolti, niente, io ho notato che negli ultimi anni forse i nostri tecnici curano poco la parte tecnica. Vedo che i nostri difensori a volte si trovano in affanno quando hanno il pallone tra i piedi, appunto hanno questa situazione di disagio, sì, in fase di disimpegno. Questa cosa l'ho notata pure tra le nostre squadre di Champions League, vedo che all'estero sono molto più preparati di noi. Anche i nostri avversari ieri sera, in alcuni frangenti, sono dimostrati più abili in fase di palleggio. Non so cosa pensavo a proposito di questo. No, ma è un rilievo corretto. È un rilievo corretto questo, non riguarda soltanto i difensori italiani, tanto che una delle priorità del mercato dell'Inter voluto da Mourinho è stato proprio quello di avere un giocatore che avesse questo tipo di caratteristiche, ed è stato preso Lucio, cioè un giocatore che fosse in grado di far ripartire da lì l'azione. Non ce ne sono molti, nemmeno sul mercato internazionale, insomma, di giocatori di questo tipo. Non mancano soltanto in Italia. Detto questo, è corretto questo rilievo, insomma, nemmeno i nostri difensori della nazionale possiedono queste caratteristiche. Restando sulla nazionale e aspettando altri ascoltatori, vi voglio far sentire anche qualche voce di ieri sera, a partire proprio da un difensore, il nostro capitano Fabio Cannavaro, che ieri sera, insomma, è stata la sua serata, la sua festa, 127 partite in azzurro, record assoluto per quanto riguarda la maglia azzurra, ed è stata ovviamente, mi viene da dire, una serata senza incassare reti. Sentiamo cosa ha detto Cannavaro. È stato bello, li ho ringraziati perché comunque mi hanno fatto una bella targa. Adesso guardiamo avanti. Ho superato un esempio del calcio che per me da ragazzino ho sempre avuto come punto di riferimento, un ragazzo eccezionale come Paolo Maldini. Sempre così, basta che sbaglio una partita e dicono che sono vecchio, quindi ormai mi sono abituato. L'obiettivo di tutti quanti prima di tutto è quello della qualificazione, perché adesso settembre, ottobre, novembre è dove ci giochiamo tutto, dove dobbiamo confermare la crescita, dove dobbiamo confermare comunque che vogliamo andare in Sudafrica, e poi dopo vediamo. Così Cannavaro, ma se la porta è rimasta inviolata, grande merito va anche al suo compagno di Juventus e di Nazionale, Gigi Buffon, ieri sera in linea di massima, il migliore in campo. Sentiamo. Sì, era importante non perdere, avere dei segnali dai nuovi, dare dei segnali noi ancora che ci siamo, e penso insomma che alla fine si sia verificato tutto ciò. Sì, devo dire che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto anche parecchie opportunità per segnare, qualcuno ha avuto anche loro, però alla fine è stato un buon match. Questa era Buffon. Ieri sera, televisivamente parlando, abbiamo avuto un assaggio di un futuro molto molto prossimo, perché chi ha il decoder di Sky in casa e ha digitato sul telecomando 101-101 è rimasto al buio, non ha visto la partita. Dalle pagine di Repubblica, Antonio Di Pollina. Ciao Antonio. Eccoci, buongiorno, ciao. Ne scrivi oggi, tra l'altro, su Repubblica, il caso, la Rai Oscura alla Nazionale sul satellite. È un futuro già presente, no? Con la Rai che, a cominciare da Inter-Lazio di Supercoppa di Pechino, ha adottato questa strategia. Sì, devo dire che ieri, col fatto che è stato fatto per una partita amichevole per di più della Nazionale, che credo che non ci fossero assolutamente precedenti da questo punto di vista, hanno fatto un passo, direi, senza ritorno, definitivo. Sono abbastanza curioso di vedere cosa succederà con i mondiali di atletica o con altri avvenimenti simili, ma è abbastanza chiaro che la RAI, in un ambito che è quello degli imminenti cambiamenti alcuni già in corso nella ricezione dei programmi tra digitale terrestre, nuova piattaforma satellitare di Rai e Mediaset e così via, è già realtà. Ieri non è successo molto perché, essendo il 12 di agosto, certo, diciamo che molta gente pensava a tutt'altro che alla partita amichevole della Nazionale ed era altrove. Però appena si torna tutti a casa, appena arrivano per esempio le partite vere che sono subito a inizio settembre per le qualificazioni ai mondiali, probabilmente molti che sono assolutamente abituati a guardare i canali Rai in assoluta comodità tramite il decoder Sky, perché si vedono anche molto meglio, certo, peraltro, rispetto all'antennina, al vecchio analogico, e in molti casi, anche in molti posti, anche rispetto al digitale, probabilmente rimarranno un po' disorientati. Quindi è un problema di scelta, non di diritti, vero? No, no, guarda, se vai a chiedere probabilmente da qualche parte una questioncella di diritti la tirano fuori, ma per le amichevoli della Nazionale non era mai successo, quindi è una scelta peraltro assolutamente dichiarata e conseguente. Sì. La Rai è in guerra con il decoder di Sky, tanto per intenderci, nonché con Sky, ha fatto sparire, non ha rinnovato il contratto per i suoi canali SAT, i famosi Rai SAT, che adesso sono gratuiti a disposizione di tutti e anche un po' declassati, tutti si aspettano che il punto d'arrivo sia la rottura completa, e cioè togliere anche, come dicevi tu, il famoso 101, nonché 102, nonché 103, certo. Rai 1, Rai 2, Rai 3 come prospettiva futura. Io a questa cancellazione totale per ora non credo, però è chiaro che se la situazione dovesse irrigidirsi ancora di più, ci si potrebbe arrivare. Si porrà un problema di fruizione di questi eventi sportivi da parte degli italiani all'estero? Sì, quello a parte che un po' c'era anche prima, perché molti di questi eventi li vedevamo noi sul territorio italiano tramite satellite, ma all'estero venivano comunque trattati per una questione di diritti, però sul discorso nazionale potrebbe porsi, a meno che abbia buona diffusione, buon riscontro da subito, cosa che per il momento non è, questa nuova piattaforma satellitare che si chiama TVSAT, per cui ci vuole un altro decoder, il famoso terzo decoder di cui si è parlato molto negli ultimi tempi, e che peraltro non è gratis perché costa 100 euro per portarselo in casa, su cui si vedranno tramite accordo tra Rai e Mediaset tutti i canali Rai e tutti i canali Mediaset via satellite. Il decoder fatto per quelle zone del paese, che non sono poche, che hanno problemi, hanno e avranno problemi di ricezione col digitale terrestre. A quel punto comunque una emissione satellitare degli avvenimenti ci sarà, e lì si spera per gli italiani all'estero che quantomeno si torni alla situazione precedente. Certo. Io non so come la pensino i nostri ascoltatori, sono anche curioso di sentire la loro opinione in proposito. 800240024 è il numero verde, però sta per iniziare la nuova stagione calcistica, 10 giorni, anzi meno, e ci siamo. Sarà quella delle telecamere negli spogliatoi. Io dico, se arriviamo con le telecamere negli spogliatoi, poi ecco perché ci interessiamo così tanto di calciomercato, perché l'ultima frontiera del segreto, dell'immaginario, della fantasia, eccetera, eccetera. Antonio, tu come la pensi su questa questione, su questa rivoluzione, tanto, però su questa nuova mossa, su questo nuovo avanzamento delle TV e delle telecamere? Beh, prima di tutto, visto che hai fatto questo esempio, mi viene in mente che fra un paio d'anni, magari pur di raccattare qualche spicciolo in più, ci potranno essere le telecamere nelle stanze segrete tra i procuratori e i presidenti che si discutono l'ingaggio di un calciatore, ovviamente fingendo e ovviamente facendo a uso delle telecamere medesime, perché anche questa innovazione degli spogliatoi a quanto pare è molto soft, ci sono dei paletti che le società hanno preteso, però siamo proprio nella fase in cui al momento delle trattative, al momento di rinnovare contratti, ci si inventa di tutto, quantomeno nominalmente, quantomeno dirlo, quantomeno ipotizzare queste nuove innovazioni per arricchire un po' di più il contratto medesimo, o per mantenere lo standard dei soldi precedenti, perché in realtà non c'è nessun motivo per cui il calcio debba essere pagato alle cifre folli che le TV pagano, visto che la concorrenza è quello che è. Sì. Ma per mantenere un po' alto, un po' vivo il discorso, per mantenerlo importante, per non parlare della qualità del campionato, vogliamo parlare della differenza mostruosa che c'è per esempio quest'anno tra il big match del campionato spagnolo e il big match di qualunque altro campionato, compreso soprattutto quello italiano. Antonio, ma una vera rivoluzione potrebbe proprio essere quella che già l'anno scorso abbiamo avuto un piccolo assaggio con molti telecomandi che sono scattati su Barcellona-Real Madrid in quella famosa partita Real Madrid-Barcellona, quando Barcellona diede lezione di calcio. Questa potrebbe essere anche la stagione di questa piccola rivoluzione determinata dal pubblico, cioè quella nella sera di grandi match stranieri di appunto far scattare il telecomando, vuoi per vedere Carlo Ancelotti, vuoi per vedere il Real Madrid o il Barcellona o altri campionati o altre situazioni. Mi raccolgo via sms e considerazioni degli ascoltatori. Mi dispiace per la nazionale, ma per quello che offre la Rai e Mediaset ne faccio a meno. Rimango con Sky pur con grande sacrificio economico, scrive Loris da Pordenone. O Giacomo, cosa aggiunge ad un evento sportivo l'ingresso delle telecamere negli spogliatoi? Come spettatore mi sembra un inutile spezzettamento dello spettacolo. Antonio Di Polline invece, questa può essere vista la povertà del nostro campionato, la grande disuguaglianza tra ricchi e peones, può essere la stagione dell'interesse sempre più marcato verso campionati stranieri. Io sono decisamente curioso di scoprire quale sarà l'anticipo o il posticipo di casa nostra che andrà in contemporanea appunto con a Barcellona Real Madrid, per esempio. È illicito, ci vogliono davvero i tifosi, quelli irrecuperabili e assolutamente fanatici per non cambiare canale. Parlo degli abbonati a Sky, perché è Sky che ha i campionati esteri, per non cambiare canale e andarsi a godere quella che sulla carta è una partita senza il minimo confronto, a quattro piste di distanza almeno da qualunque altro match che si giochi in Europa e tanto più in Italia. Quindi sì, chiaramente magari potrebbero anche decidere di darla su, Antonio, decidere di mettere, che ne so, Chievo-Catania come posticipo, tanto sanno già che tutti vanno là, no? Forse sarebbe una mossa abbastanza azzeccata e lo scopriremo quando appunto il calendario degli posticipi sarà un po' più completo. Probabilmente quella potrebbe essere una buona idea, una buona soluzione. È chiaro che sulla carta non c'è assolutamente confronto. Ora, se in tutto questo voi volete sentirci anche un minimo sentore della famosa Superlega europea prossima avventura, probabilmente un profumino di questo genere secondo me inizia a sentirsi, poi vediamo come va a finire. Invece l'altra sera, per chiudere, Antonio, c'è stato l'incubo di tutti i telespettatori del basket, non so se hai seguito Italia-Finlandia con... C'ero anch'io. È stata una produzione d'antan, che mi ha riportato indietro di molti anni, con quei cartelloni, no, immagine fissa con le fotografie meravigliose, peraltro, le Olimpiadi di Roma del 60, eccetera, e la solita musichetta che conosciamo da quando eravamo bambini. Però, santi Dio, mancavano 34 secondi alla fine della partita ed eravamo su di uno. Cioè, un telespettatore è l'incubo vero, quello lì. Sì, è il massimo che può succedere. C'era già stata un'interruzione abbastanza lunga prima, ma arrivati a 34 secondi alla fine, francamente non te l'aspetti. Ancora più curioso, secondo me, è stato il fatto che quando poi è tornata la linea, le immagini, a partita abbondantemente finita e a palazzetto vuoto, Franco Laura ci ha messo un po' a dirci che aveva vinto. Sì, cioè, non ha detto subito chi aveva vinto, ma ha fatto una sorta di radiocronaca differita dell'ultimo minuto, dicendo: ha tirato questa, è andata male, ha tirato questa, e alla fine lo spettatore, abbastanza stremato, ha realizzato dopo un minuto e mezzo abbondante che comunque l'Italia ce l'aveva fatta. Sì, guarda, io un'idea me l'ero fatta guardando i finlandesi che andavano via tranquilli e alla svelta dal palazzetto, Poteva esserci anche quello, però essendo finlandesi, sai, magari c'è quella pretesa, cioè magari accolgono così anche le vittorie all'ultimo secondo. Io con un minimo di incertezza sono rimasto fino a... Tanto vediamo se domani Italia-Francia, tanto per cominciare, sarà visibile a tutti, ma io credo di sì, domani sera... Quel Rai Sport Più per il momento sembra un canale abbastanza a parte e svincolato dalle logiche che dicevamo prima. Anche per quel motivo ho un po' di fiducia sui mondiali di atletica, a meno di... ma direi che essendosi vista tranquillamente Finlandia-Italia, credo che anche Francia-Italia, che non so se è un bene vedere... Questo lo scopriremo vivendo. Mi aspetto di tutto, sia assolutamente visibile domani alle 20 e sia sicuramente ampiamente preferibile al trofeo team dall'altra parte. Ma tu cosa dici? Grazie Antonio, davvero. Grazie a voi. Davvero un piacere, Antonio Di Pollina. Dunque, adesso avevamo un ascoltatore che voleva intervenire su questioni televisive e sul fatto che ieri sera ha provato a vedere la partita sul digitale terrestre e non ci è riuscito tanto bene. Mi interessava come discorso speriamo di andarlo a recuperare. 800 24 00 24, numero verde. Marco da Modena, poi c'è Francesco da Siena. Marco, buongiorno. Buongiorno dottore, le telefonavo in merito al rendimento della nazionale. Allora, l'Italia, che io mi ricordi, non ha mai avuto un gran rapporto né con le amichevoli né con le partite secche. Sì. E poi avevo guardato anche prima che se Atene piange, Sparta non ride. L'Inghilterra ha pareggiato in estremis con l'Olanda, la Francia addirittura è beccato senza campioni del mondo e ha vinto di misura le Faroe. Sì. Non vorrei che, mentre noi, cioè parlo del calcio del vecchio continente, anche del Brasile, dell'Argentina, ci stiamo un po' cullando sul fatto che siamo i più forti, siamo i più bravi, c'è gente alle nostre spalle che lavora duro e forse in Sudafrica ce lo faranno vedere, come era già successo una piccola anticipazione in Confederation. Ma chi si riferisce? Parlando di gente che lavora duro. Io vedo anche il Brasile che ha fatto una fatica pazzesca a vincere in Estonia, 1-0 gol di Luis Fabiano. Assolutamente, dopo no, una parlavo partita... di un calcio diciamo emergente, come potevano essere già gli Stati Uniti, oppure lo stesso continente africano. Oppure, non lo so, mi viene in mente qualche nazionale tipo della vecchia Europa, adesso come fece la Danimarca una volta gli europei, che stupì tutti. Sì, ma vede, l'europeo è un discorso diverso, Marco, perché nella storia dell'europeo troviamo la Danimarca, troviamo ovviamente di recente la Grecia, troviamo questo tipo di sorprese. Invece se andiamo a vedere le squadre che poi sono riuscite a diventare campioni del mondo e soprattutto le squadre che sono arrivate in finale, non si esce dall'ambito di quelle, vi posso dire il numero esatto, a memoria non ricordo, 6 o 7 nazionali, insomma, sono sempre quelle. Mentre negli europei la sorpresa può esserci, nei mondiali la storia del calcio insegna come questo sia molto più difficile. Però lei ha ragione nel dire che, insomma, l'Italia, se Atene piange, Sparta non ride, anche l'altra nazionale hanno i loro bravi problemi, anche se tutto sommato l'Inghilterra di Capello, che sotto con l'Olanda riesce con grande rabbia, grande cattiveria a rimontare la partita contro un avversario appunto non semplice, è quantomeno testimonianza, se non di qualità trovata, di un carattere capelliano che comincia a vedersi nella nazionale britannica, non crede? Cattiveria che abbiamo dimenticato. Come? Una cattiveria che noi non abbiamo più, forse non abbiamo... Insomma, è un po' sempre in affanno, sembrano sempre in affanno. Sì, ma abbiamo questo è abbastanza un leitmotiv per la nazionale italiana in partite di questo tipo, in questo momento dell'anno. Secondo me molto importanti saranno, oltre che per il risultato, anche per il tipo di approccio, le due partite che ci aspettano a stretto giro di posta contro Georgia e Bulgaria ai primi di settembre, ai primissimi di settembre, 5-9. E, insomma, Lippi chiede qualità. Ieri sera qualità non l'abbiamo vista, abbiamo visto 20 minuti buoni all'inizio, e poi un trotterellare lungo per quanto riguarda il resto della partita, che è stato un po' stucchevole. Ecco, Lippi chiede qualità, non c'è più tempo da perdere, dobbiamo giocare bene ogni partita al massimo. Probabilmente in questo momento il massimo sono quei 20 minuti iniziali. Aspettiamo che le due gare, in cui conterà moltissimo anche il risultato, perché come ricordava Roberto Beccantini, la qualificazione è molto probabile, il girone è morbido, però è da prendere, è da mettere in tasca ancora. Leonardo da Milano, buongiorno. Buongiorno, vorrei chiedere la mia esperienza. Io abito a Milano in un palazzo di 17 piani. Sì. C'ho Sky e c'ho il digitale terrestre. Ieri sera, come lei ha elencato prima, è successo che a un certo punto Sky ha scurato la partita dell'Italia. Sono andato sul digitale, a un certo punto si è vista la partita e poi non si è più vista la partita. Ho sull'analogico. E sì, l'analogico era proprio miserabile, proprio si vedeva malissimo. Io volevo capire una cosa. Se la Rai ha detto di andare sul digitale e la ricezione ancora non è ottimale, come fa alla gente a essere a vedere le partite del nazionale, che dovrebbe essere una cosa cioè, che tutti la vediamo ma, in tutta Italia? Bisognerebbe capire, Leonardo, però, se non era un problema tecnico suo, Non è un problema mio tecnico, perché io sul la televisione è nuova, di nuova ricezione, sì. Le antenne l'abbiamo sistemata, però purtroppo ieri andava e veniva il segnale digitale, quindi io dico una cosa, se la Rai, andandoci che bisogna andare sul digitale, ha fatto una promozione del genere sul digitale e ha oscurato Sky, Leggi della nazionale, come fa a vederla? No, ma sono d'accordo con una scelta di questo tipo. La RAI comunque è orientata sul digitale terrestre. Prima Antonio Di Polina ci spiegava di questi, a questo punto, cattivi rapporti tra RAI e Sky. La RAI fornirà per le zone, fornirà, si compra pagandolo 100 euro un decoder diverso da quello di Sky, che andrà ad ovviare appunto i problemi per quelle zone che ancora non sono completamente coperte dal digitale terrestre. Insomma, i problemi sono questi. Io sinceramente non so, ieri sera, per quanto riguarda la mia esperienza, la partita l'ho vista semplicemente su Rai 1 con l'antenna normale, e dunque non so dirvi se ci siano stati in generale problemi di ricezione, oppure se, insomma, se siano questioni tecniche contingenti. Ma io, abbonato Sky, devo ancora pagare il canone Rai? Scrive Luca da Bergamo. Temo di sì, mio caro Luca. Oppure, altro messaggio, la nazionale è di tutti, non è di proprietà del signor Lippi, lui deve una spiegazione ai tifosi sul perché non convoca Cassano. Insomma, io credo che le spiegazioni le abbia già date. E poi sono d'accordo con quanto diceva Alessandro Alciato prima. Credo che Marcello Lippi abbia tutto il credito per operare una soluzione di questo tipo. Chiudiamo con Francesco da Siena, buongiorno. Buongiorno, sì. Volevo fare una riflessione un po' critica nei confronti del calcio, ma soprattutto anche dei media, che è legata anche alla convocazione di Cassano in nazionale. Mi sentite, sì? Sì, la sentiamo. Ecco, io penso che è inutile, non si può non prendere in considerazione il fatto che generalmente le competizioni si vincono anche con la motivazione. Sì? Sì. Ecco, si vincono anche con le motivazioni. Non si può negare che la nazionale italiana ha vinto il campionato del mondo del 2006, che di fatto c'erano in campo anche delle questioni motivazionali forti. Io sì. Adesso non tanto bene. Sì, abbiamo capito il senso. C'è una questione. L'altro giorno ha telefonato un ascoltatore e diceva: ma basta con queste balle del gruppo, bisogna convocare i giocatori migliori, Cassano, eccetera, eccetera. A me non sembra che i discorsi del gruppo siano tanto marginali. Insomma, mi sembra che l'Italia abbia vinto un mondiale più che sulla base della qualità di un gioco irresistibile, sulla qualità di una nazionale che da selezione in Germania era riuscita, grazie al lavoro di 2 anni, non di un giorno né di un anno, di Marcello Lippi. E credo che quella sia stata la forza di quella nazionale, e credo anche che Marcello Lippi ci stia riprovando, pur con difficoltà superiori rispetto a quelle della sua prima esperienza. Aggiorniamo la seduta domani, torniamo alle 14 domani pomeriggio. Già vi annuncio che apriremo un'ampia pagina sui mondiali di atletica, che sono dietro l'angolo, sono il grande evento di questo spicchio d'estate, partono il giorno di Ferragosto a Berlino. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Filippo Aureggi in regia, domani.